noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ultima curva e Lewis Hamilton vince il Gran Premio d'Italia. Allora, grazie a tutti i tifosi, voi siete il migliore pubblico del mondo, davvero. E questa, anche che questa gara è stata difficile, lo so che arriviamo, la Ferrari, forza Ferrari, grazie. Sì, ma c'è un problema di base qua che bisogna risolvere, perché non riusciamo. Oggi è stato quasi imbarazzante vedere questa differenza tra la Ferrari e la Mercedes. Quindi lo sviluppo sarà fondamentale adesso. Il weekend scorso era diverso, non so, era proprio, ricordiamo, era il capovolto. Qualcosa abbiamo sbagliato negli scorsi 7 giorni, non so cosa, ma bisogna capirlo. Allora, io sarò un visionario, ma vedo un filo rosso che lega la Ferrari, la nazionale di calcio, Buffon. Il giorno prima fenomeni, il giorno dopo partita sbagliata o corsa sbagliata, tutti degli sfigati da rottamare. 800240024 è il numero verde. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. E la nuova stagione di Tutti Convocati non possiamo che aprirla con Leo Turrini. Ho parlato di filo rosso, descrivi minuziosamente la camicia azzurra che hai addosso. Buongiorno, allora io mi trovo in coda sulla Pecormano. Con una camicia azzurra anni 70 che ho visto stamattina sugli schermi di Sky. Esattamente, tutta fiorellini, una roba hippie per cercare di tirarmi sul morale. Ma qui sulla Pecormano, sai perché siamo in coda? Perché tutti quelli che hanno la Mercedes si sono messi in disposizione parata, come Hamilton e Bottas a Monza dopo il traguardo. Una scena, devo dirvi, che mai in precedenza, in occasione delle numerosissime doppiette della Freccia d'Argento, i simpatici tedeschi avevano pensato di proporre. L'hanno fatto dopo aver dominato il Gran Premio d'Italia, e chiaramente Sergio Marchionne si è chiuso la vena. Gli è andata giù la catena, gli si è chiusa la vena, tutto quello che vuoi. Vabbè. Però abbi pazienza, Leo. Tutta la pazienza che appunto voglio. Non è possibile che il giorno prima fenomeni, primi nel mondiale, il giorno dopo sbagli una gara che peraltro non era cosa tua, ne mancano 7 alla fine e no, è tutto da rottamare, tutto da buttare, tutto da rifare, vergognosi. Secondo me bisogna avere, come sempre, la capacità, alla maniera dei fotografi dell'era predigitale, di sviluppare il negativo. Mi spiego, la Ferrari a Monza sapeva di trovarsi di nella condizione più difficile, perché se c'è una pista che è tutta Mercedes è quella del Gran Premio d'Italia. Poi sai, è chiaro, io da questo punto di vista giustifico il disappunto presidenziale, guarda come sono elegante, che un conto se arrivi terzo a 10 secondi è un conto se ti becchi un distacco ciclistico che sembri Aru alla Vuelta. Sì. Questo sinceramente non ce lo aspettavamo. Io no, lo capito, dico da però ferrarista. Se giochi il campionato di calcio, perdere 1-0, perdere 3-0, non è che cambia moltissimo. Ma infatti io credo, ripeto, sviluppiamo il negativo. Sto in coda sulla Pecormano, ho un atteggiamento zen. Come diceva un grandissimo pilota che io cito spesso in queste giornate a mare, Winston Churchill, no? Che correva con la BRM, questa non è l'inizio della fine, ma è la Winston fine Churchill. Del principio, hai capito? Ci sono 7 gare, appunto. 3 punti di differenza, appunto. Cioè niente. Appunto. Allora evitiamo di cedere, diciamo così, al e allora l'aggettivo, perché io do un peso anche alle parole, l'aggettivo imbarazzante, con pardon presidente, ma lo tieni per te, giusto? Ma sai, il nostro presidente Sergio Marchionne è, come si suol dire, un uomo di carattere. Bene, io vi ricordo che quando c'era Absit Iuria Verbis eccetera, Enzo Ferrari, Indo Montanelli nel salutarlo quando il Drake andò in paradiso, scrisse, dicevano che aveva un brutto carattere, ma solo chi ha carattere ha un brutto carattere, cioè voglio dire, esatto. È uno scioglilingua. Ma poi adesso alla fine non è che le corse le vinca Marchionne, quindi no, stiamo tranquilli, stiamo sereni. A me è piaciuto molto Vettel invece, che in un contesto certamente non esaltante, perché non poteva essere contento di arrivare after the music, dopo la musica, no? Ha detto quello che ha detto dal palco della premiazione, certo. Ha detto io ci credo più di prima, so. Ma ci mancherebbe altro, ma scusa, preparando. Ma cosa fai? Ti arrendi dopo una corsa sbagliata, no, con tre punti di distacco? Ma no, ma tu lo sai meglio di me, maestro Genta, che sei il principe delle onde arziane, eccetera. Sì. Qui guarda, sulla onda, sulla Piero Comano sono tutti sintonizzati su Radio 24. Ormai la gente, quando c'è tutti convocati, pensa solo a Genta, hai capito? Guarda. Fa crollare il PIL per ascoltarti, perché smette di lavorare. Lo diciamo a Varisoni, Ma bisogna assolutamente, ripeto, evitare queste tentazioni che sono molto italiane, tu hai detto benissimo, no? Prima tutti i fenomeni, poi dopo tutti i cialtroni. Questa sera c'è il posticipo di Serie B Salernitana-Ternana, rilassiamoci, il campionato è ancora lungo, chi avrà ragione alla fine? Ventura, Marchionne, chi lo sa, scopriremo vivendo. Come ragazzi, cantava il poeta. Però dimmi una cosa, non invece. Non agitarti, gente, dimmi. No, io non sono agitato per niente. Bravissimo. Sono tranquillo come un papa. Apprezzo il tuo aplomb, bravo. 800 24 00 24, intanto sì. È il numero verde. Però dimmi una cosa, tu che sei esperto, poi ti saluto. Sì. Leggimi. Beh, insomma. Tu Enzo Ferrari e Winston Churchill ne avete viste tante di corse, sì. No? Ne abbiamo viste. Allora, leggimi in controluce le sette corse che mancano. Quante pro Ferrari, quante pro Mercedes? L'ultima, allora, lo so già, è pro Ferrari. Abbiamo finito in Europa, adesso ci sono tre tappe asiatiche, tre nelle Americhe e poi l'epilogo a Abu Dhabi. Singapore è Ferrari, perché è la versione notturna asiatica di Monte Carlo, e lì bisogna andare per fare doppietta. Non c'è discussione. Malesia alla pari, è un tracciato sul quale la Ferrari è andata bene anche in anni in cui non aveva la macchina, poi dipende moltissimo dalla variabile meteo, il monsone, eccetera, eccetera. Poi di solito Hamilton si distrae quando è a Sepang, non so come mai, forse ha degli amici per le serate notturne, in narghile alla pari. Suzuka e Mercedes. Credo che lì sarà molto molto difficile per Vettel mettere le ruote davanti alla freccia d'argento. Dopodiché abbiamo gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti Austin è ancora Mercedes per il layout della pista. Il Messico te lo do alla pari, perché c'è un pezzo guidato che chiamano lo stadio lì di Montezuma, non c'entra Montezemolo, insomma, ce la si può giocare. Anche l'anno scorso, pur non avendo la macchina, Vettel fece una bella gara prima di insultare Charlie Whiting alla fine, e quindi Messico alla pari. Il Brasile, beh, insomma, la pista di Ayrton, la S di Senna, che abbiamo vinto l'ultimo titolo col Santo Bevitore 10 anni fa, quindi qui faccio prevalere il cuore e ti dico Ferrari. Così siamo in perfetto equilibrio, come hai capito. Due io ti stavo dicendo I have a dream, lo e sai. Poi si va tra le dure. E lì bisogna che Vettel si trasformi nell'Ores d'Arabia della Formula 1. Guarda, l'ha già fatto nel 2010, tra l'altro beffò proprio la Ferrari di Alonso vincendo il suo primo titolo. Questo è il mio miraggio. C'era anche un disco di Francesco De Gregori intitolato Viaggi e Miraggi, e speriamo che alla fine non sia un miraggio, ma che si possa realizzare, perché io sono stufo qui in coda sulla Piero Comano, tutti quelli che hanno Mercedes si mettono di fianco, hai capito? Vanno imparati e ti fanno, stanno irritando moltissimo, io tra un po' sbrocco come Marchionne, quindi vorrei invitare tutti quelli che hanno la Mercedes sulla Piero Comano, mettetevi sulla destra, perché noi non abbiamo rinunciato all'idea di sorpassare. Bravissimo, grande Leo, grande Leo Turini for President, alla prossima, al più tardi venerdì, quando c'è Racing Team, anche in questa nuova stagione. Un abbraccione Forza Valentino, speriamo si rimetta in sesto, che ha avuto sempre questa sventura. Sempre Forza Valentino. Allora, io voterei Leo Turini come presidente, prossimo presidente della Ferrari, così come, e poi vi spiego perché, voterei Mino Raiola presidente della Federcalcio. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... sulla punizione potevi fare qualche cosa di più? Ma sui gol si può fare sempre di più, quello è inevitabile. È chiaro che sai, quando hai 10 persone davanti, perché 4 di barriera li hanno messi anche loro, li allungati, cioè, se non vedi partire la palla diventa complicato, ecco. Però insomma è un voler trovare, secondo me giustamente, un pelo nell'uovo, però bisogna far quello per potersi migliorare sempre. Allora, questo, come avrete capito, è Gigi Buffon, che oggi sta sul banco degli imputati, legato col filo rosso di qui sopra, cioè insieme alla Ferrari, al CT Venturi, insieme alla nazionale tutta. E quindi da qui partiamo, saluto Marco Amelia e Pierluigi Pardo. Marco Amelia, portiere, anche azzurro, campione del mondo peraltro, Pierluigi Pardo, vabbè, Pierluigi Pardo. Ciao. Portiere, non campione del mondo. Ciao ragazzi. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Questo, da qui partiamo, anche se vi devo dire, come ho promesso prima del traffico, oggi notizia del giorno, arriva dagli amici di CRC che hanno beccato Mino Raiola e che ne ha avute per tutti. Ne ha avute per Donnarumma, sto aspettando, cioè per la vicenda Donnarumma, sto aspettando scuse da una parte di tifosi e giornalisti, è facile la morale, fare la morale agli altri. Noi non abbiamo mai chiesto la fascia di capitano, ci è stata offerta sulla nazionale. Io non credo che abbiamo meno campioni della Spagna, ma se li facciamo giocare a pallavolo i nostri campioni è normale che non rendano. Se metti Isco e Asensio nell'Italia li sostituisci dopo 20 minuti, Insigne e Verratti non sono affatto inferiori a loro, anzi è stato sbagliato tutto dal punto di vista tattico, e qui aggiungo io amen. I giornalisti che hanno criticato la 10 di Insigne andassero tutti a quel paese, il 10 è un numero come un altro. Tavecchio si stava addormentando in tribuna. In Italia siamo messi male, si mascherano le cose. Questo è Mino Raiola, poi ne ho delle altre, De Laurentiis eccetera, però tanto per cominciare, questo è Mino Raiola. Se vi ricordate, in epoca elettorale, quando c'era in ballo la poltrona di presidente, Mino Raiola disse: signore, se volete la candidatura ve la offro io, e questo a me pare tanto un discorso elettorale. Comunque, questa è la notizia del giorno, poi parliamo pure di Buffon. Marco Amelia, sì. Che mi dice di Buffon? Di Gigi? Di Gigi, che il giorno prima era il portiere, l'hanno premiato come miglior giocatore della scorsa, miglior portiere della scorsa Champions League in maniera sacrosanta, il giorno dopo, cioè oggi, è un vecchio. È un vecchio per tutti gli italiani a cui piace fare le chiacchiere da bar, perché poi resta quella e basta. Cioè, il gol di Isco su punizione, ragazzi, con almeno credo più di 10 uomini in barriera tra gli italiani e gli spagnoli, tirato benissimo. È vero che non era angolato, però comunque la palla non si è alzata molto oltre la barriera, quindi Gigi l'ha vista sicuramente all'ultimo. Era molto forte, quindi il tempo di parata non ce l'ha, e se non ce l'ha Gigi, credo che nel mondo ce l'hanno in pochi il tempo di parata su queste palle. E per il resto, sulle altre situazioni, siamo sempre al solito discorso: quando si vince sono tutti bravi, quando si perde siamo italiani e dobbiamo criticare all'ennesima potenza tutto e tutti senza guardare in faccia nessuno. No, ma poi discorsi, è un errore, massimi basta. Sistemi, no? Abbiamo perso una partita perché è stata sbagliata una formazione. Allora, il CT in croce, questo progetto da buttare, il campionato italiano fa schifo, la Spagna sono fenomeni e invece noi siamo dei poveretti. Non è esattamente così, No, l'unica cosa giusta è che la Spagna sono fenomeni. Sì, però non ha torto Raiola, Marco, quando dice no. Isco e Asensio, che l'altro giorno erano fenomeni ma perché gli abbiamo regalato il centrocampo, li metti in Italia e vengono criticati come tutti gli altri. Pardo, che dici? Sì, ma infatti l'errore è quello, l'errore è proprio da parte nostra italiana, perché se uno analizza la Spagna dice sono una squadra di fenomeni. Analizziamo l'Italia. L'Italia ha dei giocatori di grandissima qualità. Ah. E, secondo me Insigne, Verratti, De Rossi, cioè, sono giocatori di grandissima qualità. Siamo stati surclassati in una partita, perché poi andiamo a vedere la storia del passato. L'Italia, la Spagna contro di noi ha sempre fatto molta fatica, forse tranne nella finale dell'Europeo del 2012. Esatto, Marco. Perché altrimenti nel 2008 perdemmo i rigori, tra l'altro meritando di vincere in partita. Abbiamo avuto tre occasioni, mentre loro forse un tiro da 30 metri di senna, me lo ricordo perché c'ero ancora io. Andando avanti con le partite, sempre nel 2012 pareggiamo la prima gara, nelle altre partite pareggiamo con Conte. Cioè, Sono fortissimi, però alla fine ci hanno battuto l'altra sera. Va bene, sono fortissimi, però non siamo inferiori. Cioè, il complesso di inferiorità a me non piace. Pardo, neanche a me. Sono un po' più forti di noi. L'altra sera sono sembrati anni luce più forti di noi, perché abbiamo sbagliato. Ha sbagliato anche CT. Poi da qui a dire che il discorso dell'equilibrio è vero, è assoluto. Non è che Ventura non era il miglior commissario tecnico al mondo prima di sabato sera e non è adesso uno che non sa fare il suo lavoro. Ha sbagliato la partita, non è un dettaglio, la storia dello sport vive di situazioni. Se c'è la finale dei 100 metri, il campione la vince e quello che è meno campione non la vince, quindi non lo stiamo parlando, perché sennò poi sembriamo tutti matti. È chiaro che il risultato pesa, perché il risultato fa la storia dello sport, quindi è, c'è differenza tra vincere e perdere, e c'è differenza tra perdere in un certo modo e perdere come abbiamo perso l'altro giorno. Quindi questo ci sta, però l'equilibrio serve, certo. Noi proprio non sappiamo cosa sia. Buffon ha giocato male l'altra sera, non è stato il solo, ha giocato male l'altra sera, non è che sia diventato adesso un pensionato. Poi appunto, è ovvio che un portiere che non è più un ragazzino, tutte le volte che c'è qualche scricchiolio, qualcuno quando la domanda se la fa, ma ce l'abbiamo fatto, ti ricordi Beckenbauer dopo Bayern Juve, era 7-8 anni fa, e poi Buffon ha fatto il fenomeno. No, ma certo, è chiaro, ma lui, il problema è che ci hanno messo nell'angolo come un pugile che surclasse un altro fin dal minuto zero, quindi era evidente fin dall'inizio che la Spagna avrebbe dominato quella partita, e l'avrebbe dominata per motivi essenzialmente, o più che altro, tattici e non di valore assoluto dei singoli giocatori. Marco, invece, andiamo, dimmi un attimo di Raiola, cosa ne pensi di queste parole che ha detto oggi, che ho letto prima? Sì, non è mai banale, Mino, perché comunque ha detto delle cose anche giuste. Sul discorso Donnarumma è inutile chiedere delle scuse da parte di tifosi o media o altro, non ha senso. L'importante è che si sia risolta la situazione. È vero che però in quel periodo Gigio è stato criticato tanto, e noi mi metto anch'io, ma anche se non l'ho fatto, parlo dall'esterno, abbiamo criticato un ragazzino di 18 anni in una situazione dove probabilmente sono nati delle problematiche dipese da tutte le parti, non solo dalla parte, c'è gente giocatore che lo vorrebbe subito titolare in nazionale. Pronto o no, Marco? Ma subito titolare pronto in nazionale c'è ancora Gigi, c'è Buffon. Io credo che l'inserimento debba essere graduale, quindi arriviamo a questo mondiale, poi Gigi deciderà cosa fare, e l'inserimento sarà graduale con Donnarumma e gli altri. Quindi in questo momento no, dico di no, perché Gigio ha giocato nel Milan, ha fatto solo campionato italiano e sta iniziando mano a mano a fare delle partite di nazionale, e ora inizierà a fare delle partite di Coppa Europea con il Milan. Quindi giocare in campionato italiano e giocare poi in Coppa UEFA, in Champions League o addirittura con la nazionale, fase finale di mondiale ed europei o qualificazioni che siano, non è la stessa cosa, quindi deve essere graduale l'inserimento. Ricordiamo sempre che Gigio ha 18 anni. Assolutamente. Pierluigi? Caduto. D'altra parte siamo lì con il solito cellulare. Comunque, Marco, dicevamo di Donnarumma, portiere subito, titolare subito, anche no. E di questo discorso politico che... Finché c'è Buffon, no. Ma io sono d'accordo con te, perché sì. Buffon, l'obiettivo di Gigi era il prossimo mondiale, sta giocando, si sta allenando, si sta facendo il mazzo per il prossimo mondiale, poi la punizione di Isco, un'altra volta ne riparliamo. Pardo è ricaduto, ovviamente, con Carlo, come sempre. Devo anche ricordare, non per essere antipatico, che anche Donnarumma ha vissuto una situazione durante l'Europeo Under 21 di grande stress, di grandi polemiche. Cioè, questa mancanza di equilibrio non vale solo per Buffon, vale per tutti. Io su Raiola, io sono d'accordo con quelle cose che dice. Penso in generale che non esista solo, ma lo dico, non faccio al procuratore, sicuramente il mio 7.40 ne trarrebbe giovamento, ma va bene così, mi diverto a fare il giornalista. Ma il procuratore deve pensare, secondo me, anche ad altre logiche, soprattutto quando dei ragazzi giovani, cioè non esiste soltanto la logica commerciale. Poi è ovvio che Raiola ha fatto un capolavoro, perché alla fine Donnarumma è rimasto al Milan con uno stipendio da favola, e che col Milan, fratellino che li fa la baglia, guadagna un sacco di soldi anche lui, quindi ha vinto anche stavolta da questo punto di vista Mino Raiola. Però il punto vero è che, secondo me, soprattutto con i ragazzi, e penso che Marco lo possa confermare, perché Marco da parecchi anni sta facendo scelte e cose interessanti da uomo, no, di prospettiva, che vuole approfondire, che sa che la vita dura più di una stagione, più di uno stipendio, più di un contratto, esiste anche questo. Lì onestamente c'è stato un problema di comunicazione. Ha ragione Raiola che probabilmente si è sentito criticato, si è sentito anche insultato lui e Donnarumma in quei giorni, però era difficile spiegare la scelta di un ragazzo così giovane che aveva giocato fedeltà al Milan, con un Milan che stava crescendo, che andava via. Poi era legittimo, per carità, sono professionisti, però io credo che questa scelta sia stata la scelta più giusta, e forse a questa scelta ci si poteva arrivare anche con una comunicazione diversa. Poi forse se ci si fosse arrivata con una comunicazione diversa e quindi senza questo scontro, Donnarumma avrebbe preso meno soldi. Quindi poi forse alla fine dal punto di vista commerciale ha avuto ragione, sai, lui come ma sempre. Sai. Pier, ma è quello che ti dico. Allora, è una provocazione per alcuni, vedo i messaggi, poi sentiamo anche le telefonate 800240024, è una provocazione. Raiola, presidente della Federcalcio, va bene, sta antipatico a tutti, quello che volete, però poi andate voi, signori presidenti dei club o signori giocatori o signori allenatori, a parlare con il professor dottor Mino Raiola quando si tratta di farla dura, Marco? Sì. Da questo punto di vista non sarebbe male, perché lui fa gli interessi dei suoi assistiti. Se il suo assistito è la Federcalcio, fa gli interessi della Federcalcio. Bravissimo, preso. Proprio per questo, perché comunque Mino è molto bravo a fare l'interesse di ciò che rappresenta, quindi non sarebbe male. Però ecco, io credo che ognuno deve fare il suo mestiere al meglio. Mino sa fare il suo, forse come pochi, e lo sta facendo bene. Dal mio punto di vista, tornando a Donnarumma, il rinnovo di Donnarumma secondo me è stato gestito male dal Milan, perché si poteva gestire un po' meglio sotto banco, in silenzio, senza fare, conoscendo soprattutto l'altra parte, senza fare tutto quello che è successo, avrebbero risparmiato anche qualcosa. Sì. Ma al di là di questo, torniamo di qua. È vero che purtroppo oggi la Federcalcio vive un momento non proprio brillante. Bellissimo. Però purtroppo non è facile controllare nulla. Secondo me il grosso problema dell'Italia, del fatto che comunque da tutti i punti di vista stiamo perdendo qualcosa, stiamo tornando, ci stanno passando davanti stati e nazioni che prima erano distanti anni luce, ci stanno passando avanti. Il problema è nei settori giovanili, dove purtroppo vedo poche strutture. Ci sorpassano perché loro corrono, noi continuiamo a camminare con lo stesso passo. Marco, io ti ringrazio, ti abbraccio, grazie, ci sentiamo molto presto. Ciao Marco Amelia. Una cosa in 30 secondi sull'ultimo 30, tema, poi Borsa, vai. La 10 di Insigne, che mi sembra una polemica assurda. Mi sembra veramente una polemica assurda. Prima di tutto perché il numero 10 sappiamo che può avere un effetto positivo o negativo. Pensa di Pala, come ha iniziato la stagione con il numero 10, e c'era pure chi diceva, quando gli è stata data, chissà se sentirà il peso di questa maglia, e ha reagito benissimo. Secondo, perché il numero 10, a parte che Insigne se la merita, perché il talento è, secondo me, più lucente in prospettiva della nostra nazionale, e quindi non mi sembra assurda questa cosa in assoluto. Ma poi non, c'è sempre un po' di tafazzismo. Vi ricordate la polemica con Thiago Motta per la numero 10 a Thiago Motta? Come se fosse un giocatore comunque di esperienza, un giocatore ordinato, importante all'interno dello spogliatoio. Cioè, delle volte noi siamo veramente capaci di farci gli autogol che sono incomprensibili. Insigne, se c'è uno che tecnicamente in questa nazionale vedo pronto per la numero 10, si chiama Lorenzo Insigne. Anch'io. Allora, ci fermiamo per la borsa. Poi già vi annuncio, fa un salto qua il signor Cruciani, che vedo da qualche parte. Microfoni aperti per gli ascoltatori, facciamo una decina di minuti così, che ne dite? A dopo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Come promesso, saluto il signor Zanzara Giuseppe Cruciani. Eccomi pronto qui. Pronto a nuova stagione, bentornato dalle vacanze, bello fresco e abbronzato. Beh, abbronzato adesso, non esageriamo. Abbronzato magari no, ho inventato io. Abbronzato di sicuro parlo, anche se non lo vedo, ma questo lo so già. Che è in linea con noi naturalmente. Come promesso, sui vari temi che abbiamo lanciato, e ribadisco, Cruciani ha sotto gli occhi l'intervista di oggi di Mino Raiola, che secondo me è la notizia del giorno, e su cui sono d'accordo al 99%. Sì, manca un 1% che ha discusso. Devo ancora capire su cosa non sono d'accordo. No, magari sulle punte del Milan, che dice che non vede un attaccante nel Milan. Sono d'accordo. Secondo me ne ha qualcuno. No, io no. Comunque, parliamo con gli ascoltatori, ragazzi. Claudio da Udine, Giuseppe, poi Remo e poi gli altri. Una decina di minuti duri con gli ascoltatori. Via. Claudio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Claudio da Udine. Ero al Santiago Bernabéu sabato, dopo tanti anni che non andavo allo stadio. Certo, la sera sbagliata, sì, ok, dica. Sì, sì, bellissima, però questa partita non sono nell'analisi bravo, ma si può dire tecnicamente, tatticamente, ci sono stati degli errori sicuramente. Volevo solo contribuire per dire sul calcio di punizione, secondo me sì. Pochi minuti prima c'è stata una punizione identica in cui la barriera era più vicina. Vero. A me sembra che l'arbitro abbia messo la barriera abbastanza distante. Guardi Claudio, dettagli sono, secondo me sono qui squilli rispetto al disegno complessivo della partita. Poi la punizione ha influito poco, se non segnavano lì segnavano in un altro modo, ma era chiaro come andava a finire. Ho avuto la sensazione di una squadra che quando voleva accelerare ma accelerava. Assolutamente, ci ha messi nell'angolo e ci hanno picchiati in faccia dal primo minuto. Giuseppe, che ne pensi? Io penso che un altro allenatore sarebbe stato messo già in altri tempi sulla graticola molto di più di quanto lo sia stato in queste ore Ventura. Cioè in altri tempi avrebbero già chiesto, cioè una sconfitta come questa, che è una sconfitta totale, una sconfitta se vogliamo anche epocale, no? Cioè prendere tre gol dalla Spagna in quel modo, messi sotto, bastonati eccetera, e molti avrebbero chiesto la testa dell'allenatore della nazionale. Insomma, velatamente, Beppe, il discorso c'è, non, a me non sembra che le critiche siano state morbide, no, ovviamente, le critiche, ovviamente perché poi alla fine, come dicevo prima, la storia dello sport è questa roba qui, poi la differenza tra vincere e perdere c'è, non è che non c'è differenza tra vincere e perdere, e soprattutto quando perdi così male non puoi pensare che non abbia un impatto. Il punto è che di fronte a prove serie, e anche la partita con l'andata con la Spagna fu un mezzo disastro, poi salvata da un rigore, poi sì abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma insomma per più di un'ora siamo stati massacrati anche all'andata nettamente, cioè quando si alza l'asticella escono fuori tutti i problemi. Di fronte a questo, secondo me l'allenatore giusto era uno come Conte, adesso lasciamo perdere il fatto che, perché riusciva con il suo carattere, con quello che ha messo dentro, non snaturando le caratteristiche fondamentali di una nazionale italiana, che è sempre quello prima difendere e poi vediamo, non c'è più, non è l'unico allenatore al mondo, ma dico riusciva, è riuscito Conte a mascherare i problemi che avevamo anche agli europei l'anno scorso, eppure siamo usciti da quegli europei ai quarti, che in altri tempi sarebbe stato un disastro per la nazionale italiana, quasi come se avessimo vinto la competizione, cioè con elogi e tutto quanto. Il punto è questo, cioè io sono sempre scettico nei confronti degli allenatori che vogliono dare un gioco alla squadra. Ma no, questo è di gioco, questo era questione semplicemente di piccoli accorgimenti tattici. Il punto è questo, ragazzi. Cioè, la partita dell'altro giorno è la partita più facile del mondo da commentare, nel senso che noi abbiamo fatto un azzardo che abbiamo anche nelle ore prima della partita in qualche modo benedetto, più per diciamo l'ottimismo della volontà. No, vabbè, nel senso io francamente sbaglio sempre i pronostici, come sai, Pier. Ho giocato il 3-1 della Spagna, ho giocato 50 euro e mi sono mangiato le mani alla fine, non me ne fregava più niente della partita per quel gol alla fine che abbiamo un po' mancato, no? Che abbiamo mancato nei minuti finali, perché avrei vinto credo il 3-1 della Spagna, lo davano a 25, una cosa di questo tipo. Vedi, insomma, tu. Alla fine ero concentrato più su questo aspetto qua, ma perché in realtà già prevedevo, c'è la gran cassa delle ore precedenti sul fatto che dovevamo fare l'impresa al Bernabéu, è sempre qualcosa di negativo, però, al massimo. Ho visto la formazione 3-1. Ma cioè, conosciamo un pelo il calcio, non è detto che se tu metti 10 attaccanti e un portiere fai 9 gol. Se tu lasci il centrocampo alla Spagna, sei da allenatore, sei da dilettanti. Bravissimo. Diciamo la verità, è una cosa dilettantesca. E lo diciamo da due giorni. Lo sappiamo tutti, gli regali il centrocampo, è l'unica squadra al mondo forse cui tu non puoi permetterti di regalare il centrocampo, sennò ti aprono in due come hanno fatto. Giuseppe. Sì, buon pomeriggio a voi tutti. Ascoltatemi, premesso che il tifoso italiano facilmente porta sugli altari, facilmente getta nella polvere, però per onestà mentale di noi tutti e anche sua, signor Genta, ho sentito un suo concetto poco fa in cui ammetteva la deficienza tecnica, tattica da parte della squadra italiana, ma sul piano del confronto del valore dei giocatori li metteva alla pari. Beh, io vorrei dire che l'errore che commettiamo tutti è proprio là. Questi nostri giocatori, e questo vale anche per la squadra Under 21, non a caso ci hanno dato tre sberle anche in quello. Ma no, allora, ma noi siamo più deboli, posso rispondere? Non è vero. noi siamo più deboli della Spagna, ma non siamo così deboli come sembrava l'altra sera. Guarda, e io la penso come Raiola, Pierluigi. Con una squadra con ancora meno talento, perché un anno fa il calcio italiano era, diciamo, nel processo di crescita, secondo me è ancora più indietro. Mm. E da questo punto di vista, secondo me Ventura non ha fatto cattive cose, nel senso che Ventura più la quello che è successo normalmente, fisiologicamente, di una serie di giocatori che sono cresciuti, pensate Belotti e Immobile nell'ultimo anno e mezzo, che cosa hanno fatto. Non è che sono cresciuti grazie a Ventura. Non solo grazie a Ventura, assolutamente, però sono cresciuti e secondo me quindi oggi noi siamo messi meglio rispetto a un anno e due mesi fa, abbiamo vinto con la Spagna, con una squadra che aveva però un approccio, una mentalità, diversi. Va bene tutto, però aver messo in campo, oltre che quell'osceno centrocampo contro la Spagna, perché diciamoci la verità, non è che bisogna per forza, uno dice no, ma sono tutti allenatori della nazionale. Immaginare che con quei centrocampisti là saremmo stati presi a pallate non è una cosa così bizzarra. Non è che bisogna essere Nostradamus, chiunque, qualsiasi persona di buon senso metteva con la Spagna l'obiettivo è arrivare 0-0 a un quarto d'ora dalla fine. Ma questo è abbastanza evidente in una partita come questa. Tu non puoi sentirti superiore, devi fare l'Italia, una squadra che specula, una squadra che mena, una squadra che picchia, una squadra rognosa, una squadra che deve mordere i polpacci dell'avversario, non una squadra che pensa ad attaccare, a giocare a pallone. In Spagna devi andare così, devi andare puntando ad arrivare 0-0 a 10 minuti dalla fine, poi vediamo. E lo devi fare con 5 centrocampisti, 6, quelli che vuole, mezzo attaccante, finti attaccanti, e poi giratevi la palla. Ma io quello che dico da una settimana, tra me e me, lo dicevo tra una settimana, ma di che parliamo? All'attacco in Spagna, ma siete matti? Cioè bisogna giocare con 5 centrocampisti, 6, 7, nessun attaccante, e poi giocare su tutti gli ultimi 10 minuti. Amico Crociani, capito, stampato, ragazzi. Già il 4-3-3 poi diventa 4-5-1 in fase di ripiegamento, avrebbe cambiato le cose. Adesso è ovvio che dirlo dopo, però io per dirti ero abbastanza scettico. Poi quando ho sentito che si andava verso questa soluzione, ho pensato che Ventura aveva predisposto i meccanismi tattici per poter sopravvivere a questa situazione, e invece non è stato così, purtroppo. Cioè, l'errore capitale, un altro errore capitale anche da Matita Blu, oltre agli altri naturalmente, però due, il primo è questo qua, ma l'hanno notato tutti. Un altro che hanno notato tutti, lo ripetiamo senza problemi, no, ma a parte i cambi, sì, ma quello, insomma, su questo si possono avere mille, sì, si poteva cambiare il primo tempo subito, vista la mala parata del primo tempo, magari segnavi un gol subito, ma lo potevamo segnare, il 2-1 anche con la stessa squadra lo potevamo segnare, sì, non è quello il problema, è tanto i cambi. E scusate, ma perché Spinazzola, senza avere giocato 20 secondi in campionato, nemmeno in campionato, nemmeno nell'amichevoli, perché era fuori squadra. Adesso, per carità, non è stato nemmeno il peggiore, ma perché? Cioè, qua dietro c'è una mentalità, no? La mentalità è troppo spazio al tatticismo, allo schema, cioè dunque Spinazzola rientra in quello schema lì. Ma perché Rugani non può giocare? Una volta infortunato Chiellini, perché non c'è un altro difensore per utilizzare il modulo che lui pensava di utilizzare all'inizio? Che so, tutte pippe, quelle oltre Chiellini, che non riescono a giocare con la difesa 3. Rugani giocano, la Juve, metti Rugani, no? Allora, Remo dalla provincia di Reggio Emilia, poi saluti i ragazzi, andiamo avanti domani, vi lascio lì con tutta questa montagna di temi. È lunga. Remo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie dello spazio concesso. A lei. Dica. Mi riferisco al primo gol della Spagna, fuori area, negli angoli dell'area grande, diciamo, appena fuori area, come ne abbiamo viste migliaia. Classica barriera di quattro uomini sul primo palo. Ancora c'è lì questa punizione. Punizione fuori area, sul lato sinistro dell'area, guardando Buffon, giusto? È il primo gol della Spagna. E allora? Ok. È una classica punizione dove i grandi specialisti, con la barriera sul primo palo e il portiere che difende l'ultimo fantastico, quarto... Perfetto, guarda, okay, sì. Ma ci siamo finché vuole. Se non segnano lì, segnano tre minuti dopo... L'abbiamo già detto. Punizione. L'abbiamo già detto, Buffone. Poi... Noi parliamo in generale. Lei parla della punizione. Sì, noi la parliamo punizione in generale. Come io, che compio 73 anni fra qualche giorno, allora, ne ho viste migliaia. Dunque, ok? Sì. Da Corso, Mazzola, Rivera. Fantastico. Dunque, ok. Allora, il tempo di percorrenza sopra la barriera sul primo palo, tempo, mettiamo che sia due secondi. Sì. Vabbè, allora... se lei rivede il film di Buffon che fa due passi e poi vola a un metro di distanza. L'abbiamo già detto. Allora, Buffon è una pippa da buttare via, da rottamare. No, ciao, Buffon ha giocato male l'altra sera. Ma hanno giocato male tutti. Cioè, il discorso è che stiamo a guardare quella punizione. È come guardare il solito discorso del dito della luna, no? È chiaro, la cosa, fra l'altro, Buffon l'ha raccontato mille volte, in intervista una volta pure a me, che la cosa che gli dà più adrenalina e più stimoli è proprio sentire le critiche, che spesso non sono mancate, quindi l'augurio in bocca al lupo che possa reagire da questo punto di vista, perché però voglio dire, non è che Buffon ha un'immunità parlamentare per cui se gioca ma ha giocato male, però da qui torniamo al discorso dell'equilibrio a definire finita una carriera. No, ma quella è una follia. Qua, ma è lo stesso discorso che vale per Buffon, per la nazionale, per la Ferrari, il fio rosso che ho visto all'inizio. Allo stesso modo Insigne sicuramente ha giocato una partita, o Berratti hanno giocato una partita meno positiva di quella che si poteva immaginare. Sicuramente perché nelle loro squadre, penso soprattutto a Insigne, che del Napoli di Sarri si esalta, hanno dei moduli molto più collaudati che funzionano molto meglio. Questo non vuol dire che siano giocatori che non hanno fatto neanche un favore agli attaccanti con la formazione dell'altra sera. Allora, ragazzi, vi saluto. Giuseppe, stasera ore? 18:30 sono invitato come al solito. Si ricomincia. Oggi passo il radio. Vengo a benedirti. Ciao ragazzi. Ciao. Allora adesso abbiamo il traffico e poi voglio parlare di un altro azzurro che è impegnato negli europei. I love this game. Tutti convocati. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Convocati. Prima di tutto questa è una squadra che viene da una medaglia agli ultimi europei, che gioca insieme da tempo, esperta, rodata, con un centro NBA che parte in quintetto NBA e ti costringe a collassare l'aria, ti costringe a giocare dentro fuori, se non sei duro nel difendere il pick and roll è tutto più difficile. Questo è Daniel Hackett. A proposito della partita, della sconfitta che ieri sera abbiamo subito contro la Lituania, che ci sta, ciò non toglie nulla al valore, all'europeo che sta giocando questa squadra. Caro Recalcanti, come sapete è l'ultimo ad aver alzato un trofeo, che era un trofeo meraviglioso, la medaglia d'argento alle Olimpiadi con questa squadra. Tra l'altro io e Charlie ci ricordiamo benissimo quella, se tutta Italia si ricorda benissimo quella semifinale storica, contro la Lituania. Ciao Carlo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Bella partita quella. Bella partita. Godo ancora adesso, a distanza, Beh, a distanza di qualche anno. Senti, non Charlie, dovrei dirlo io, ma è stata la miglior partita della nazionale italiana in assoluto. Allora lo dico io. Ascolta Charlie, mille volte abbiamo fatto questo discorso con te. Non serve dire abbiamo le stelle NBA, siamo un bel gruppo, siamo un gruppo, ci piace stare insieme, e tu hai sempre detto in maniera impeccabile, dura e precisa, se stai bene, se è un gruppo, non serve dirlo, fallo. A me invece questa squadra con meno stelle sembra molto più gruppo. Sì, no, assolutamente, si erano sentiti prima dei campionati europei, facevamo proprio queste considerazioni e direi proprio che questa squadra sta dimostrando quanto sia importante andare in campo e dimostrare sul campo quanto vali e che non hai timore di nessuna avversaria, anche se si chiama Lituania, anche se è una squadra che agli europei non hai mai battuto, però sei sicuro delle tue qualità, delle tue certezze e vai dritto in campo, guardi negli occhi gli avversari e giochi le tue possibilità fino alla fine. Sì, anche qui come per la nazionale di calcio è una questione di dettagli, in questo caso è questione di centimetri, ma questo lo sapevamo dall'inizio, Messina l'ha sempre detto, non abbiamo la stazza per competere a quel livello, abbiamo altre armi. Sì, e mi sembra che le ultime partite abbiano dimostrato anche come Ettore abbia trovato strada facendo delle opzioni che la squadra aveva, che però non aveva mai provato nel periodo di preparazione, e mi riferisco alla possibilità di far giocare da Tome da numero 4 tattico, cosa che Gigi sa fare molto bene e dà la possibilità alla squadra di avere in campo contemporaneamente nel momento in cui non c'è Melli, altri quattro giocatori, altri tre giocatori oltre a Gigi molto pericolosi dal punto di vista perimetrale. Chiaro che siamo sempre molto legati, forse troppo legati, alle percentuali nel tiro da tre punti. Queste sono le nostre armi e quindi non possiamo chiaramente inventare in centimetri, non possiamo inventare i chili, no. Però possiamo, appunto, come ha fatto benissimo Ettore, trovare delle soluzioni che sotto certi aspetti sembra che ti penalizzano contro gli avversari, però gli avversari poi si devono preoccupare di te. Bravissimo, quindi si devono preoccupare di te. Sì, Gigi da numero 4 è veramente per tutti le ali forti straniere, quindi delle altre nazionali, vallo a marcare con il numero 4 avversario, vallo a marcare tu con uno che viene battuto in uno contro uno tutte le volte. Un'ultima cosa, Charlie, questa nazionale che abbiamo così dipinto, tra l'altro in attacco, e anche qui parliamo delle stelle di qui sopra, quando Bargnani, Gallinari, lo stesso Bedinelli, tutti insieme in coro, Gentile, quelli che volete, tutti insieme in coro, non vedevi delle gerarchie, chi si prende il prossimo tiro. Adesso, cosa che a me piace tantissimo e a te piacerà da allenatore, gerarchie precise: numero 1 Bellinelli, numero 2 Datome, numero 3 Melli, numero 4 tutti gli altri, poi chi viene viene. Sì, sì, poi tanti altri che all'occorrenza il Filloi, direi, tra tutti, passatore meraviglioso, che esatto, che possono appunto diventare protagonisti in attacco. Però la cosa importante è che tutti assieme fanno sempre il massimo dal punto di vista difensivo, e questa chiaramente non può che essere una delle chiavi della nostra nazionale. E poi dopo Bellinelli mi piace perché sta giocando con grande autorità e soprattutto sfruttando tutte le sue occasioni, però capendo anche che magari a un certo momento della partita gli avversari sono particolarmente attenti su di lui. E allora vai sull'opzione numero 2, certo. Esatto, apri gli spazi per gli altri. Gigi è sempre pronto a scoccare il suo tiro. D'altra parte, Gigi, sai, a me facevano un po' sorridere così le remore che c'erano prima dell'inizio europeo sul fatto che Gigi non facesse canestro. Fare canestro per uno che lo ha sempre fatto è come andare in bicicletta. Non lo dimentichi mai. Non è che lo dimentichi perché non fai canestro in un amichevole. In sella, e poi pedali quando conta, pedali al Tour de France. In allenamento, in allenamento pedali per fare la gamba. Carlo, ti ringrazio. A prestissimo. Un abbraccio. Abbraccio a Carlo Recalcati. Abbraccio alla nazionale di basket di Ettore Messina, perché la storia non è finita qui in questo europeo, anzi continua, come continuerà domani tutti i convocati alle 14 presenti, signori. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, un saluto a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!